sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Rimbalzo a Piazza Affari, calano gli spread, l'oro tocca nuovi record. Murdoch pensa al ritiro, tra poco verrà ascoltato alla Camera dei Comuni. L'omicidio di Melania, ha arrestato il marito, omicidio aggravato dalla crudeltà, scrivono i giudici. Mondiali di nuoto, bronzo a Tania Cagnotto, la Grimaldi argento nella 10 km di fondo. Buona giornata dalla redazione da Anna Rita D'Ambrosio. La cena di ieri sera ad Arcore a confermare l'alleanza tra Bossi e Berlusconi, con molti punti ancora aperti nel post manovra, soprattutto il decreto rifiuti e domani il voto dell'Aula sull'arresto dell'onorevole Papa. Partiamo da qui in diretta con Roma con la nostra Elisabetta Fiorito. Sì, proprio così. Nessuna certezza comunque per Silvio Berlusconi nel rapporto con la Lega. Il Presidente del Consiglio non trova l'accordo con Umberto Bossi nella consueta cena di Arcore di ieri sera sull'arresto di Alfonso Papa, coinvolto nell'inchiesta sulla P4. Il Carroccio deciderà questa sera alla riunione del gruppo di Montecitorio. Il voto per l'autorizzazione all'arresto di Papa è atteso in aula domani. E sempre qui alla Camera, come avete detto voi da studio, arriva il decreto rifiuti in Campania. Altro punto di divergenza tra Lega e PDL. La parola spetta ai parlamentari padani dopo la bocciatura in Consiglio dei Ministri da parte del Carroccio e il gruppo starebbe valutando l'astensione sul provvedimento. Angela Alessandri spiega che il provvedimento recepisce adesso le richieste della Lega, che non sono più obbligate a prendersi rifiuti campani e possono dire di no. C'è poi la questione dei costi della politica, anche cara al Carroccio, che dovrebbe essere analizzata questa settimana dal Consiglio dei Ministri. Nella riforma prevista dal Ministro della Semplificazione Roberto Calderoli, ricordiamo, gli stipendi dei parlamentari che dovrebbero essere correlati alla loro presenza in aula per evitare assenze ingiustificate. Verrebbero abolite anche le circoscrizioni estere e il Senato diventerebbe a base federale. E per il momento qui da Montecitorio è tutto, a voi studio. Grazie Elisabetta. E di manovra economica sta discutendo il Partito Democratico, che ha riunito oggi la direzione, sempre in diretta da Roma, Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Effetti della manovra economica e legge elettorale al centro della riunione dei vertici del principale partito di opposizione, con una premessa fatta subito dal leader Bersani: il paese è nei guai, servono forze e idee del Partito Democratico. Se non riusciamo ad interpretare un profilo di governo con il volto del cambiamento radicale, ha avvisato Bersani, rischiamo di finire anche noi in questo clima di indignazione e sfiducia. Quanto alla legge elettorale, l'appello al partito è che ci si unisca intorno alla proposta già esistente del PD e che non ci si divida sui referendum. Il capitolo economico, quindi, la manovra non è sufficiente, penalizza le classi più svantaggiate. Enrico Letta spiega: l'intervento approfondi elementi di iniquità e non spinge sulla crescita. Infine, i costi della politica per il PD: è necessario che Camera e Senato applichino il regolamento dell'Europarlamento sulla riduzione delle spese. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo. E la manovra approvata venerdì scorso si trascina, lo avete sentito anche nella puntata di oggi di Salva Danaio, polemiche per la reintroduzione dei ticket sanitari. 9 regioni hanno congelato l'aumento: Piemonte, Veneto, Umbria, Toscana, Emilia-Romagna, Trentino, Sardegna, Valle d'Aosta e Abruzzo. Nessuna decisione ancora dal Molise, Friuli e dalla Sicilia. 8 regioni invece hanno detto già sì: Liguria, Lazio, Calabria, Puglia, Basilicata, Marche, Campania e Lombardia. Ma i governatori non sono del tutto convinti. Alessandro Milan questa mattina ha intervistato il governatore lombardo Formigoni. O Scilla, facciamo pagare il ticket ai cittadini, o Cariddi, togliamo ai cittadini altri servizi e non gli facciamo pagare il ticket, perché la situazione è così, ma questa non è solo per la Lombardia, anche per tutti, le altre certo. regioni. Ma siamo più a Scilla, a Cariddi. Non lo facciamo pagare, deve togliere ai cittadini altri servizi, quindi stiamo valutando che cosa sia meno doloroso fare. Credo domani si sarà la decisione, cioè siamo più tra Scilla, sì. più verso i cittadini o più verso... Guardi, ho convocato i miei tecnici per oggi pomeriggio, mi porteranno tutte le valutazioni, tutte le soluzioni possibili, poi domattina abbiamo la giunta e prenderemo la decisione. Ma lei piace questo ticket? No, perché... assolutamente no. Guardi, io ho fatto una battaglia durissima nel 2007 quando è stato inserito dal governo precedente, abbiamo anche fatto ricorso alla Corte Costituzionale, la quale ci ha dato torto, ha detto che il governo può inserire il ticket. Allora il governo Prodi allora ebbe ragione di fronte alla Corte Costituzionale a inserire il ticket, poi la battaglia delle regioni fece sì che il governo successivo togliesse il ticket, oggi lo hanno reintrodotto, è chiaro che costituzionale era, quindi costituzionale rimane. E Augusto Fantozzi, il commissario straordinario di Alitalia, la parte della società di amministrazione controllata, si è dimesso. Questo perché, si legge in una nota pubblicata sul sito, ha ritenuto che sia venuta meno la fiducia del governo nei suoi confronti. La decisione fa seguito all'approvazione della manovra, che contiene misure che riguardano proprio le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese. E adesso diamo uno sguardo alla borsa, borsa che oggi è in forte rimbalzo, come ci racconta la nostra Deborah Rosciani. Sì, buongiorno. Allora, ieri la manovra correttiva dei conti pubblici all'esame del mercato, una forte penalizzazione, Milano aveva perso il 3,06% e sembra già completamente archiviata tutta la preoccupazione che aveva investito ieri i mercati. Il FTSE MIB a Piazza Affari guadagna il 2,45, sono in quasi totale recupero tutti i titoli del settore bancario. Ieri per esempio Intesa San Paolo e Unicredit hanno lasciato sul campo quasi intorno al 6% e oggi recuperano rispettivamente il 5,34%. Il 4,59%. Bene tutte quante le banche, bene il comparto assicurativo, Generali più 3,82%, Banco Popolare più 3,80%, Monte dei Paschi più 3,56%, per cui sta ritornando un po' di ottimismo da parte degli investitori, anche se non si conoscono le ragioni di queste contraddizioni che da giornate intere stanno investendo la borsa. Bene anche gli altri listini europei, Parigi più 1,37%, Francoforte più 1,52%, Londra più 0,50%, rimane un po' più indietro oggi la City, bene anche l'euro che sul dollaro ha riconquistato la soglia di 1,42 stamattina per tornare indietro adesso a 1,41,79. Però l'incertezza rimane, questo lo si vede sia dal nuovo balzo in avanti per l'oro che è arrivato al nuovo record assoluto stamattina a Londra, $1,610 l'oncia. E poi ancora la tensione sui titoli di Stato, questa mattina ci sono state due aste importanti da parte del Tesoro spagnolo che ha dovuto riconoscere appunto rendimenti in crescita per questi titoli a 12 e 18 mesi. Migliori notizie sono arrivate dalla Grecia, che ha collocato sul mercato titoli del tesoro a 3 mesi per 1,625 miliardi di euro. I rendimenti sono risultati in lieve ribasso, intorno al 4,6% rispetto all'ultima emissione. Questa è la situazione di questa mattina. Anna Rita, ti restituisco la linea. Grazie Deborah, noi parliamo dello scandalo intercettazioni in Gran Bretagna. Cosa sapevate dello spionaggio telefonico sistematico organizzato per anni dal settimanale News of the World? Quando esattamente siete venuti a conoscenza della portata del meccanismo? E questa è la domanda che i 10 parlamentari della Commissione Cultura e Informazione vogliono porre tra pochissimo, a partire dalle 13.30 ora italiana, al magnate dei media Rupert Murdoch. Insieme al figlio James, il successore designato, e alla manager Rebecca Brooks, libera su cauzione, l'uomo che dall'Australia sbarcò a Londra acquistando proprio il News of the World sopra il quale costruì un impero, dovrà sostenere un'opinione pubblica ormai dichiaratamente ostile. Se infatti i piani alti temono coinvolgimenti che arrivano a interrogare il primo ministro, la gente comune è scandalizzata dall'invasione che coinvolge persone lontanissime dalla sfera pubblica. Esemplare è il trattamento subito dalla famiglia della piccola Millie Dowler, uccisa a 13 anni da un serial killer nel 2002, violata dopo morta dal furto compiuto da un investigatore pagato dal settimanale dei Murdoch, dei messaggi disperati lasciati dai genitori nella sua segreteria telefonica. Uno scandalo, insomma, che per questo investe l'intera società britannica e che ha solo iniziato a scuoterla. Gigi Donnelly, Radio 24, Sole 24 Ore. E intanto i pirati informatici, noti per avere attaccato le scorse settimane la CIA, il Senato americano e la Sony, sono tornati a colpire e questa volta sotto attacco è finito proprio Rupert Murdoch. Gli hacker hanno preso d'assalto il Sun, che nella home page della sua versione online di oggi ha fatto irruzione con il titolo "Trovato il corpo di Murdoch". La rivendicazione è stata poi postata su Twitter: "Abbiamo preso possesso del Sun e non è che l'inizio". In Italia adesso per la cronaca, per tornare a parlare dell'arresto oggi di Salvatore Parolisi. A 3 mesi dall'omicidio è svolta nelle indagini sulla morte di Melania Rea. Questa mattina i carabinieri di Ascoli hanno arrestato il marito Salvatore Parolisi, il fratello di Melania, Michele. Poi ce l'aspettavamo tutti, però sai, fino a quando poi non hai la certezza che una cosa è accaduta, ci sta ancora più male. Gravi le accuse: omicidio volontario pluriaggravato da parentela e crudeltà e vilipendio del cadavere insieme a un possibile complice non identificato. A pesare sul provvedimento, il pericolo di inquinamento delle prove e reiterazione del reato da parte dell'uomo, considerato socialmente pericoloso. Risale al 18 aprile scorso la scomparsa della donna. Il marito racconta che il fatto è avvenuto durante una gita a Colle San Marco, vicino ad Ascoli. Due giorni dopo, il cadavere viene ritrovato in un bosco a Ripi di Civitella, nel Teramano. Tanti gli elementi che lanciano ombre sul marito. Le contraddizioni sul riconoscimento del luogo dove è stata trovata la moglie, il comportamento strano che lo ha portato a ignorare le ricerche e a cancellare un profilo su Facebook, e infine il risultato dell'autopsia, che fissa la morte nel lasso di tempo in cui la donna era con il marito, e non dopo la presunta scomparsa. Un ruolo importante nella vicenda avrebbe avuto la relazione che Parolisi aveva con una soldatessa di nome Ludovica. A provarlo, i messaggi su Facebook inviati con il profilo cancellato subito dopo la morte della moglie. La donna premeva sul militare perché lasciasse la moglie e a Pasqua avrebbe dovuto persino presentarlo ai genitori, come prova la prenotazione di una stanza d'albergo ad Amalfi. Giacomo Segantini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Andiamo a Palermo adesso, in via D'Amelio, nel ricordo oggi della strage in cui il 19 luglio del 92 morì il giudice Borsellino insieme ai 5 agenti della sua scorta. Per una volta, in 19 anni di attesa per questo anniversario della strage di via D'Amelio in cui morì il giudice Borsellino con la sua scorta, c'è qualcosa di nuovo, c'è un'inchiesta che inizia a far luce sul movente della strage. Borsellino sapeva della trattativa tra Stato e mafia e non intendeva voltarsi dall'altra parte, e sull'esecutore materiale Giuseppe Graviano, che fece saltare l'esplosivo con un telecomando nascosto pochi metri più là di via D'Amelio. Però ci sono anche tanti punti oscuri ancora da chiarire, a cominciare proprio dalla trattativa, e un clima che riporta i giorni della strage e fa paura. Come sottolinea il magistrato di Palermo, Gaetano Paci. Il clima è quello della cittadella assediata soprattutto paradossalmente da chi dovrebbe in realtà difenderla, da quella parte delle nostre istituzioni che non perde occasione per denigrarla. Oggi alla cerimonia in ricordo delle vittime della strage di via D'Amelio organizzata al Palazzo di Giustizia di Palermo è intervenuto a sorpresa il presidente della Camera Gianfranco Fini, che non ha risparmiato le stoccate alla politica. Fare pulizia al proprio interno, non candidare coloro che sono sospetti di vicinanza con la mafia, non elevarli a posti di responsabilità pubblica nello stesso momento in cui risultano inquisiti. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Via libera del CDA di Meridiana all'acquisto di Air Italy. Nasce così un nuovo gruppo italiano del trasporto aereo presente nei voli di linea sui mercati della Sardegna e delle principali città italiane, una realtà del trasporto aereo di oltre 800 milioni di fatturato. L'amministratore delegato Massimo Chieli ha rassegnato le dimissioni, al suo posto arriva Giuseppe Gentile, fondatore di Air Italy. Due lutti oggi ci hanno lasciato il diplomatico e scrittore Boris Biancheri, 80 anni, e l'ex ministro della Democrazia Cristiana Remo Gaspari, 90 anni. Lo sport, seconda medaglia per l'Italia ai mondiali di nuoto di Shanghai. Dopo l'argento di Martina Grimaldi nella 10 km di fondo, è arrivato il bronzo di Tania Cagnotto nel trampolino da un metro. E poi noi parliamo di cinema per chiudere. Si gira in Lombardia in questi giorni a Lodi il seguito di una delle commedie blockbuster della scorsa stagione. Dai subito l'alta, l'ultima. Dai Chantal. Giorni di set scommettendo in un nuovo record al botteghino. Dai, era perfetta, l'ho rivista, quindi vedi tu se la vuoi fare. L'anno scorso fu il film apripista della stagione delle grandi commedie italiane, inatteso perché un remake, ma ora di Benvenuti al Sud arriva addirittura il sequel Benvenuti al Nord. Il regista Luca Miniero. Sì, il film è in effetti chiaramente un sequel, però racconta, più che altro auspica una collaborazione fra Nord e Sud nella collaborazione fra i due personaggi, che non è tanto il superamento dei pregiudizi come nell'altro, ma sempre in commedia, anche perché è un film forse più divertente dell'altro, racconta come se Nord e Sud stanno insieme, migliorano. Protagonisti ancora Claudio Bisio e Alessandro Siani, che ha scoperto Milano. Abbiamo girato all'isola. All'isola, come si è trovato all'isola? Male. No, ma aspettavamo fu bagna, invece no. L'isola è un quartiere di Milano, perché non lo sapesse, pieno di cemento e cementificato. Abbiamo fatto pure un biglietto per l'aliscafo. E non gliela mi devono rimborsare. Stop, ok. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Lodi. Ed è tutto per questa edizione, ora c'è Italia in controluce, il GR torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.